Capitolo 20. Una fervida immaginazione male indirizzata. A Green Gables era di nuovo primavera. La timida primavera canadese, tanto bella e dolce quanto capricciosa, nei mesi di aprile e di maggio offriva un susseguirsi di giornate tiepide, fresche o decisamente fredde, con splendidi tramonti rosa e i miracoli di rinascita che si ripetevano ogni anno. Gli aceri del sentiero degli innamorati erano carichi di gemme rosse e intorno alla bolla della driade spuntavano qua e là piccole felci dalle foglioline ancora avvolte su se stesse. Più lontano, nelle distese brulle oltre la tenuta del signor Silas Sloane, c'erano moltissimi cespugli coperti dei dolci fiori di maggio, i fiori del biancospino, teneri puntini bianchi e rosa nascosti tra le foglie scure. Tutti gli alunni della scuola, maschi e femmine, passarono un luminoso pomeriggio a raccoglierli e tornarono a casa tutti insieme nel tramonto sfumato di arancio e di rosa che echeggiava delle loro voci, con braccia e cestini traboccanti del bottino floreale. Figurati, ci sono paesi dove non esiste il biancospino. Mi spiace moltissimo per chi ci abita, commentò Anna. Diana dice che magari ci sono fiori più belli, ma secondo me non può esistere niente di più bello dei fiori di maggio, no, Marilla? Diana dice anche che se non li hanno mai visti non possono soffrire perché non li hanno. Invece, secondo me, è proprio questa la cosa più triste. Mi sembra una vera disgrazia non sapere cos'è il biancospino e non poter nemmeno sentirne la mancanza. Sai cosa immagino che siano i fiori del biancospino, Marilla? Le anime dei fiori morti l'estate dell'anno prima, che qui sono nel loro paradiso. Oggi è stata una giornata stupenda, sai? Abbiamo mangiato in una valletta piena di muschio, vicino a un vecchio pozzo. Oh, sapessi, era un posto così romantico. Charlie Sloane ha sfidato Artie Gillis a saltare il pozzo e Artie l'ha fatto, ovviamente, perché non rifiuterebbe mai una sfida. Nessuno a scuola lo farebbe mai. In questo periodo è molto, di moda. Tutti si lanciano sfide di ogni tipo. Il signor Phillips ha regalato a Prissy Andrews tutti i fiori che ha raccolto e le ha detto i fiori più delicati per la più delicata delle fanciulle. L'ho sentito con le mie orecchie, sai? Una frase così di sicuro l'ha trovata in un libro, garantito. Beh, se non altro questo dimostra che perfino lui dentro di sé ha un pizzico di fantasia. Comunque, qualcuno ha offerto dei fiori anche a me, ma li ho rifiutati. Però non posso dirti chi, perché ho giurato di non pronunciare mai il nome di quella persona. Con le mie amiche abbiamo intrecciato tante ghirlande di fiori freschi e ognuna si è appuntata la sua sul cappello. E tornando a casa ci siamo messe tutte in fila, due a due, come in processione, con i mazzi di fiori fra le braccia e le ghirlande in testa, e abbiamo cantato in coro La mia casa sulla collina. Oh, sapessi che emozione, Marilla. La famiglia di Silas Sloane al completo è uscita a vederci passare e tutti quelli che abbiamo incontrato per strada si sono fermati a guardarci. Eravamo uno spettacolo. Credo bene, con un comportamento così sciocco, fu la rigida reazione di Marilla. Dopo la fioritura del biancospino, esplosero le viole e ogni angolo della Valle delle Violette si riempì di colore. Mentre andava a scuola, Anna l'attraversava con passi riverenti e occhi adoranti, come se camminasse su un terreno sacro. Non so perché, confidò a Diana, ma quando passo di lì l'idea che Jill, che qualcun altro possa diventare il primo della classe al mio posto, mi lascia indifferente. Non me ne importa. Ma quando arrivo a scuola cambia tutto e mi importa di nuovo, come sempre. Ci sono molte Anne diverse dentro di me, sai? Forse è questo il motivo per cui combino tanti pasticci. Se fossi una sola, sempre quella, sarebbe più comodo, certo, però decisamente meno interessante. Una sera di giugno, con gli alberi da frutto di nuovo coperti di fiori rosati, le rane che gracidavano allegre negli acquitrini all'estremità del lago delle acque scintillanti e l'aria profumata di trifoglio e del legno balsamico degli abeti, Anna era seduta vicino alla finestra della sua cameretta in mansarda. Fino a poco prima stava studiando la lezione, ma ormai era troppo buio per leggere e la bambina si era abbandonata a uno dei suoi castelli in aria e aveva lo sguardo perso oltre i rami della regina della neve, che come sempre in quella stagione era una meravigliosa nuvola di boccioli candidi. Nella sua essenzialità, la piccola mansarda era sempre uguale. Le pareti erano bianche, il puntaspilli imbottito e compatto, le sedie rigide e semplicissime, con la seduta rivestita della stessa stoffa giallina. Ma l'atmosfera della camera era molto diversa. Era intrisa di una nuova personalità, piena di energia e di vita, che sembrava ovunque, in ogni angolo, indipendentemente dai libri scolastici, dai vestiti, dai fiocchi e dalla brocca blu sbeccata, piena di fiori di melo appoggiata sul tavolino. Era come se tutti i sogni notturni e diurni dell'irrequieta ragazzina che l'abitava avessero assunto una forma visibile, per quanto non concreta, e avessero tappezzato le pareti spoglie della cameretta con stoffe evanescenti e preziose intessute dei colori dell'arcobaleno e del chiaro di luna. All'improvviso entrò Marilla, con alcuni scamiciati di Anna stirati di fresco. Li appoggiò sullo schienale di una sedia e crollò seduta con un sospiro. Quel pomeriggio aveva avuto uno dei suoi attacchi di emicrania e anche se ormai il dolore lancinante era passato, si sentiva fiacca, come diceva lei. Anna le rivolse uno sguardo limpido e compassionevole. «Oh, Marilla, vorrei aver avuto l'emicrania al posto tuo oggi. L'avrei sopportata volentieri per darti sollievo». «Beh, ti sei occupata della casa e io ho potuto riposare. Il tuo dovere l'hai fatto», la rassicurò Marilla. «Tutto sommato te la sei cavata e mi pare perfino che tu abbia combinato meno pasticci del solito. Certo non occorreva inamidare i fazzoletti di Matthew e quando si mette a scaldare uno sformato per la cena, di solito lo si tira fuori quando è caldo, non lo si lascia carbonizzare in forno, ma ormai lo sappiamo che tu non ti comporti come gli altri». L'emicrania stimolava sempre il sarcasmo di Marilla. «Oh, scusami», disse Anna avvilita. «Dopo averlo infilato in forno, allo sformato non ci ho pensato proprio più, anche se a cena avevo la sensazione che a tavola mancasse qualcosa. Stamattina, quando mi hai chiesto di badare alla casa, ero fermamente decisa a non perdermi come sempre nelle mie fantasie e a stare concentrata sulla realtà. E ci ero anche riuscita, finché non ho infornato la teglia. Ma a quel punto ho ceduto e ho cominciato a immaginarmi come una principessa prigioniera, in una torre solitaria, da cui un incantesimo le impediva di uscire. E poi è arrivato in mio aiuto un bellissimo cavaliere, in groppa a un destriero nero come il carbone. Per questo mi sono dimenticata dello sformato e ho inamidato i fazzoletti senza rendermene conto. Mentre stiravo mi sono messa a pensare a un nome per il nuovo isolotto che io e Diana abbiamo scoperto nel torrente. È un posto meraviglioso, Marilla, sapessi. Sopra ci sono due aceri e tutto intorno scorre il ruscello. Pensa e ripensa, alla fine ho deciso che sarebbe perfetto chiamarlo Isola Vittoria, visto che per puro caso l'abbiamo scoperta il giorno del compleanno della regina. Io e Diana ci sentiamo fedeli suddite della monarchia, sai? Comunque, mi spiace molto per lo sformato e i fazzoletti. Oggi ci tenevo particolarmente a comportarmi molto bene perché è il primo anniversario, quindi è davvero un giorno importante. L'anno scorso come oggi è successa una cosa davvero speciale, ti ricordi, Marilla? No, non mi viene in mente niente di particolare. Oh, Marilla, ma sono arrivata a Green Gables! È stato il giorno in cui ci siamo conosciute! Non lo dimenticherò mai! È stata una vera rivoluzione per la mia vita. Certo, a te non sembrerà poi così importante, lo capisco, però oggi è un anno che sono qui ed è stato un anno assolutamente felice. Ho avuto i miei problemi, per carità, ma le difficoltà si superano, no? Tu sei pentita di avermi tenuta qui, Marilla? No, non sono pentita, rispose Marilla, che a volte dentro di sé si domandava come avesse fatto a vivere prima dell'arrivo di Anna Green Gables. No, no, non mi sono proprio pentita. Se hai finito di studiare la lezione, Anna, fa una corsa dalla signora Barry, per favore, e chiedile se può prestarmi il cartamodello che ha usato per l'ultimo scamiciato di Diana. Oh, ma è troppo buio, esclamò Anna. Troppo buio? Ma se il sole è appena tramontato. Sai il cielo, quante volte sei andata da loro che era buio ben più di adesso. Oh, ci vado domani mattina presto, provò a proporre la bambina decisa. Mi sveglio all'alba e ci vado subito, Marilla. Si può sapere cosa ti salta in testa adesso, Anna Shirley? Il cartamodello mi serve stasera. Devo tagliare il tuo scamiciato. Vai immediatamente a prenderlo e sbrigati. Oh, allora mi toccherà fare il giro dalla strada principale. concluse la bambina prendendo controvoglia il cappello. Passare per la strada principale e perdere mezz'ora? Stai scherzando, spero. Marilla, io non posso passare dalla foresta stregata, sbottò Anna in preda alla disperazione. Marilla la fissò allibita. La foresta stregata? Ma di cosa stai parlando? È il bosco di abeti che costeggia il torrente, spiegò Anna con un filo di voce. Non c'è proprio nessuna foresta stregata, ma chi ti ha raccontato queste stupidaggini? Nessuno, confessò Anna. Diana e io ci siamo immaginate che il bosco fosse stregato. Tutti i posti qui sono talmente normali. Ce lo siamo inventate per divertimento. Abbiamo cominciato ad aprile. Una foresta stregata è così romantica, Marilla. Abbiamo scelto il bosco di abeti perché è sempre in penombra, tenebroso. Sapessi, ci siamo immaginate le cose più terrificanti. Più o meno a quest'ora, per esempio, si incontra una dama bianca che passeggia disperata sulla riva del ruscello, torcendosi le mani e lanciando gemiti e lamenti. Appare quando in famiglia sta per morire qualcuno. E c'è anche lo spettro di un povero bambino assassinato che abita nella zona vicino al boschetto dell'Ozio. Striscia le spalle delle persone e posa le dita gelide sul dorso della mano, così. Oh, Marilla, la sola idea mi fa venire i brividi. Ma non è finita. C'è anche un uomo senza testa che va su e giù per il sentiero e dai cespugli spuntano scheletri che ti fissano con aria maligna. Oh, Marilla, non passerei dalla foresta stregata per nessun motivo al mondo quando è buio. Sono assolutamente sicura che uno stuolo di bianche presenze sbucherebbero da dietro gli alberi per ghermirmi. Oh, una cosa del genere, davvero inaudita! Esclamò Marilla, che l'aveva ascoltata a bocca aperta, muta e sgomenta. Anna Shirley, non pretenderai di convincermi che credi davvero a queste assurdità, quando sono solo il prodotto della tua immaginazione malata. Io non ci credo fino in fondo, farfugliò Anna, o almeno non ci credo quando è giorno. Ma quando scende il buio, Marilla, allora è tutto diverso perché gli spiriti si aggirano per la foresta quando è immersa nelle tenebre. Gli spiriti non esistono, Anna. Invece sì, ci sono, ribatté convinta la bambina. C'è gente che li ha visti, sono persone degne di fiducia. Charlie Sloane dice che una sera sua nonna ha incontrato il marito che riportava le mucche nella stalla, solo che lui era morto e sepolto da un anno. La nonna di Charlie Sloane è una donna molto devota, non direbbe mai bugie. E il padre della signora Thomas è stato inseguito fino a casa da un agnello di fuoco con la testa mozzata, attaccata solo per una striscia di pelle. E secondo lui era lo spirito di suo fratello che lo avvertiva che sarebbe morto entro 9 giorni. Non fu proprio così, ma morì comunque 2 anni dopo. Come vedi, era la verità. E Ruby Gillis dice: Anna Shirley, la interruppe Marilla severissima. Non voglio più sentirti parlare di queste cose. Ho sempre avuto seri dubbi su questa tua immaginazione così fervida. E se questi sono i risultati, non ti permetterò più di abbandonarti a certe fantasie. Vai immediatamente dai Barry e passa per il boschetto di abeti. Non ammetto repliche. Spero che ti serva di lezione una volta per tutte. E mai, mai più dovrà uscire dalla tua bocca una sola parola sulle foreste stregate. Anna poteva piangere e implorare quanto voleva, e lo fece, perché il suo terrore era reale. L'immaginazione le aveva preso la mano, e quando scendeva il buio la bambina era davvero terrorizzata al solo pensiero di attraversare il boschetto. Marilla, però, non intendeva cedere e fu granitica. Accompagnò la piccola, che vedeva fantasmi fino al torrente, e le intimò di attraversare il ponte e inoltrarsi nell'oscuro ritrovo di donne gementi e spettri decapitati che stava dalla parte opposta. Oh, Marilla, come puoi essere così crudele? Chiese Anna singhiozzando disperata. Come ti sentiresti se uno spirito mi afferrasse e mi trascinasse via con sé? Me ne farei una ragione, dichiarò Marilla senza la minima compassione, e sai che non parlo mai a vanvera. Te la faccio passare alla svelta, questa bella pensata di vedere spiriti a destra e a sinistra. Cammina! E Anna camminò, o meglio, attraversò il ponte barcollando e incespicando e si avviò lungo il minaccioso sentiero di tenebra che si inoltrava fra gli abeti. Non dimenticò mai quei momenti. Si pentì amaramente di aver lasciato galoppare a quel punto la sua fantasia. Aveva continuamente la sensazione che i folletti maligni che si era immaginata, crogiolandosi nel terrore, fossero nascosti in ogni ombra e dietro ogni ramo. pronti ad allungare le loro lunghe dita gelide per ghermire la ragazzina che aveva osato evocarli. Una striscia bianca di corteccia di betulla che scivolava sul terreno, sospinta dal vento, le fece letteralmente fermare il cuore. Il fruscio scricchiolante di due rami secchi che si muovevano l'uno contro l'altro le fece imperlare la fronte di sudore. Il frullo d'ali del pipistrelli nell'oscurità sopra la sua testa la fece pensare a creature sovrannaturali che scendevano in picchiata. Finalmente raggiunse il campo di William Bell e lo attraversò volando, come se avesse alle calcagna un intero esercito di spettri lattiginosi, e quando raggiunse la porta della cucina dei Berry era talmente affannata che la signora faticò a capire la richiesta del cartamodello per lo scamiciato. Diana non era in casa, perciò Anna non poté trattenersi e fu costretta ad affrontare immediatamente il terrificante viaggio di ritorno. Ripercorse il sentiero a occhi chiusi, perché piuttosto che trovarsi davanti a qualcosa di bianco, preferiva rischiare di sbattere la testa contro un ramo. Quando finalmente tornò a incespicare sui tronchi del ponte, sospirò di sollievo, tremando come una foglia. «A quanto vedo non sei stata rapita da nessuno», osservò Marilla spietata. «Oh, ma Marilla!» balbettò Anna battendo i denti. «Da adesso in poi mi accontenterò dei posti normali». Capitolo 21. Una novità negli aromi per torte. Ahimè, in questo mondo si passa il tempo a incontrarsi e poi a dividersi. La signora Linde lo dice sempre, commentò avvilita Anna l'ultimo giorno di giugno, depositando i libri e la lavagnetta sul tavolo della cucina e asciugandosi per l'ennesima volta gli occhi rossi con un fazzoletto già molto umido. «Oh, Marilla, è stata una vera fortuna che mi sia venuto in mente di portare a scuola un fazzoletto in più oggi. Me lo sentivo, in qualche modo, che ne avrei avuto bisogno. Non avrei mai pensato che ti occorressero ben due fazzoletti per asciugarti le lacrime di dispiacere per la partenza del maestro. Non mi sembrava che fossi così affezionata, signor Phillips», osservò Marilla. «Non credo di aver pianto tanto perché gli voglio bene», rifletté la bambina. «Ho pianto perché piangevano tutti gli altri. Ha cominciato Ruby Gillis. Aveva sempre sostenuto di detestare il signor Phillips, ma appena lui si è alzato per salutarci, è scoppiata a piangere. E tutte le bambine l'hanno seguita a ruota, una dopo l'altra. Io ci ho provato a trattenermi, Marilla. Mi sono sforzata di ricordare quella volta che il maestro mi ha obbligata a sedermi in banco con Gil, con un maschio, e ho ripensato a quando ha scritto il mio nome alla lavagna con la A in fondo, a tutte le volte che mi ha definita l'allieva più ignorante in geometria che gli fosse mai capitata e che mi ha presa in giro per i miei orrori di ortografia, e ho ricordato quanto sia sempre stato antipatico e sarcastico con me. Ma non ci sono proprio riuscita. Marilla, vai a capire perché». E sono scoppiata a piangere anch'io. Da più di un mese Jane Andrews ripeteva che sarebbe stata più che felice quando il signor Phillips se ne fosse finalmente andato e sosteneva che non avrebbe versato nemmeno una lacrima per lui. Beh, era quella che piangeva più di tutte le altre messe insieme e ha dovuto addirittura farsi prestare il fazzoletto da suo fratello, visto che ovviamente i maschi non piangevano, perché lei non l'aveva portato, convinta che non le sarebbe servito. Oh, Marilla, sapessi, è stato straziante. Il signor Phillips ha fatto un bellissimo discorso di addio. Iniziava così: «È ormai venuto per noi il momento di separarci». Davvero commovente, aveva gli occhi pieni di lacrime perfino lui, Marilla, figurati. Io mi sono sentita così in colpa per tutte le volte che ho chiacchierato in classe, ho usato la lavagnetta per disegnare la sua caricatura, oppure ho preso in giro lui e Prissy. Io avrei tanto voluto essere una luna modello come Minnie Andrews. Sul serio, lei non aveva nessun rimorso di coscienza. Tutte noi abbiamo continuato a piangere per tutta la strada fino a casa. E Carrie Sloane ripeteva di continuo: «È ormai venuto per noi il momento di separarci». E tutte giù di nuovo a piangere, appena sembrava che fossimo lì lì per rassegnarci un po'. «Sono ancora sconvolta, Marilla. Comunque, non si può lasciarsi andare alla disperazione totale quando ti si para davanti la prospettiva di 2 mesi di vacanza, no? Tra l'altro abbiamo anche incontrato il nuovo pastore e sua moglie che venivano dalla stazione. Stavo ancora soffrendo per la partenza del maestro, certo, ma non potevo trattenere un po' di sana curiosità per il nuovo pastore e per sua moglie, ti pare? La signora è proprio carina. Non una vera bellezza, ma non mi pare che sarebbe appropriato per un ministro della Chiesa sposare una gran bellezza. Potrebbe essere interpretato come un cattivo esempio. Secondo la signora Linde, la moglie del pastore di Newbridge, dà un pessimo esempio perché segue troppo le mode. La moglie del nostro nuovo pastore portava un bel vestitino di mussola blu, con le maniche a sbuffo, e un cappello decorato di roselline. Jane Andrews ha detto che secondo lei le maniche a sbuffo erano troppo frivole per una donna nella sua posizione. Ma io ho evitato qualsiasi commento poco caritatevole, Marilla, perché so cosa significa desiderare un paio di maniche a sbuffo. Inoltre, la signora è moglie di un pastore da poco tempo, perciò qualche concessione si potrebbe anche fargliela, no? A proposito, staranno a pensione dalla signora Linde finché non saranno finiti i lavori in canonica. Quella sera, Marilla scese a casa della signora Linde per riportarle il telaio da trapunta che si era fatta prestare l'inverno precedente. Se il vero motivo di quella visita fosse in realtà un altro, in fondo si sarebbe trattato di una debolezza perdonabile e soprattutto condivisa da gran parte degli abitanti di Avonlea. Molti oggetti che la signora Linde aveva dato in prestito negli ultimi mesi, spesso convinta di non rivederli, le furono restituiti proprio quella sera in modo del tutto inatteso. Era normale che un nuovo pastore, in particolare giovane sposato, scatenasse la curiosità in un piccolo paese di campagna come Avonlea, dove le novità di solito scarseggiavano. L'anziano signor Bentley, il pastore che ad Anne era sembrato completamente privo di fantasia, era ad Avonlea da 18 anni. Al suo arrivo era vedovo e tale era rimasto, nonostante le voci che da un anno con l'altro gli attribuivano un legame affettivo e un imminente matrimonio con questo o quella zitella del circondario. Nel febbraio di quell'anno si era dimesso dall'incarico ed era partito, con grande dispiacere dei parrocchiani, molti dei quali nel corso degli anni gli si erano affezionati, benché come oratore non fosse un granché. Da allora la chiesa di Avonlea si era riunita ad ascoltare i vari candidati e supplenti che una domenica dopo l'altra si erano susseguiti sul pulpito per esercitarsi nella predicazione. La valutazione, positiva o negativa, competeva agli anziani della congregazione, ma c'era una bambina dai capelli rossi che stava sempre seduta in silenzio all'estremità del vecchio banco dei Cuthbert. E aveva un'opinione precisa in proposito e ne discuteva a fondo con Matthew, dal momento che Marilla si rifiutava, a prescindere, di criticare in qualsiasi modo i ministri della Chiesa. Secondo me, il signor Smith non sarebbe stato adatto a noi, Matthew, fu il giudizio conclusivo di Anna. La signora Linde sostiene che non sapeva neppure cosa fosse l'enfasi, ma io penso che il suo peggior difetto fosse lo stesso del signor Bentley: non aveva fantasia. Viceversa, il signor Terry ne aveva decisamente troppe e finiva per esagerare, come è capitato a me con quella storia della foresta stregata. E poi la signora Linde dice che in materia di teologia era piuttosto scarso. Il signor Gresham era un uomo buono e devotissimo, ma raccontava troppe barzellette e faceva ridere la gente in chiesa, il che non va bene perché è segno di poca dignità. E un pastore che manca di dignità non è un pastore come si deve, sei d'accordo, Matthew? Secondo me il signor Marshall era proprio un bel tipo, ma la signora Linde si è informata e ha saputo che non è sposato né fidanzato e ritiene che un pastore giovane e scapolo non andrebbe affatto bene per Avonlea. Se avesse finito per sposare una qualche ragazza della congregazione, sarebbero potuti sorgere facilmente dei problemi. La signora Linde è molto acuta nelle sue valutazioni, vero Matthew? Comunque sono contenta che abbiano scelto il signor Allan. Mi è piaciuto subito perché il suo sermone era davvero interessante e ha pregato con convinzione, non come se fosse un'abitudine qualunque. La signora Linde dice che non è perfetto, ma dice anche che per 750 dollari all'anno non possiamo pretendere un pastore perfetto. E in ogni caso, il pastore Allan ha basi teologiche ben salde, e lei lo sa, perché l'ha interrogato a lungo su tutti i punti più importanti, e poi conosce la famiglia della moglie, che è molto rispettabile e seria. Una famiglia in cui le donne sono tutte bravissime massaie. La signora Linde dice che una conoscenza approfondita della dottrina dell'uomo e ottime capacità nel portare avanti la casa nella moglie sono il connubio perfetto per la famiglia di un ministro della Chiesa. Il nuovo pastore e sua moglie erano una coppia di sposini ancora in luna di miele, pieni di entusiasmo e buone intenzioni per il compito che avevano scelto, e da subito Avonlea ricambiò con la stessa cordiale fiducia. Tutti gli abitanti di ogni età apprezzarono i due ultimi arrivati, il simpatico giovanotto con i suoi nobili ideali e la giovane donna gentile e intelligente che prese energicamente in mano il governo della canonica. Anna si innamorò subito della signora Allan, aveva trovato un altro spirito affine. «La signora Allan è adorabile», affermò una domenica pomeriggio. «Adesso è lei la nostra maestra di catechismo alla scuola domenicale ed è una bravissima insegnante». Per prima cosa ha dichiarato che secondo lei non è giusto che sia soltanto l'insegnante a fare domande, che poi Marilla è esattamente ciò che ho sempre pensato anch'io. Ha detto che potevamo chiederle qualsiasi cosa e io ne ho approfittato. Sono brava a fare domande, sai? Oh, non ho il minimo dubbio in proposito, fu il commento convinto della donna. Nessuno ha chiesto nient'altro, a parte Ruby Gillis, che ha voluto sapere se quest'estate ci sarà di nuovo il picnic della scuola domenicale. A me però non sembrava una domanda opportuna, perché non c'entrava proprio niente con ciò di cui si parlava, ovvero Daniele nella fossa dei leoni. Ma la signora Allan le ha sorriso e ha risposto che credeva di sì. Ha un sorriso delizioso, sai, e due fossette molto, molto graziose sulle guance, agli angoli della bocca. Oh, vorrei tanto averle anch'io, Marilla. Non sono più magra come ero quando sono arrivata, però le fossette non mi sono ancora venute. Se le avessi, magari riuscirei a convincere il mio prossimo a fare del bene. La signora Allan dice che dovremo continuamente cercare di convincere chi ci sta vicino a seguire la via del bene. Ha parlato di tante cose in un modo talmente piacevole, sapessi? Prima di conoscere lei non immaginavo proprio che la religione potesse essere così allegra e interessante. Mi è sempre sembrata un po' malinconica. Ma la signora Allan è tutt'altro che triste, e se potessi essere come lei mi piacerebbe davvero essere cristiana. Certo non vorrei mai essere come il sovrintendente Bell. Oh, parlare così del signor Bell è molto impertinente, la rimproverò Marilla. Il signor Bell è un uomo buono e saggio. Oh, buono e buono, concordò Anna, ma dà l'impressione di non ricavare il minimo conforto dalla sua bontà. Se io fossi così buona, ballerei e canterei per la gioia dal mattino alla sera. Certo, capisco che la signora Allan è un po' troppo grande per ballare e cantare come una ragazzina, anche perché sarebbe sconveniente per la moglie di un pastore. Tuttavia, sento che è felice di essere cristiana e che vorrebbe esserlo in ogni caso, anche se non fosse necessario per andare in paradiso. Ah, prima o poi dovremmo invitare gli Allan per il tè, disse Marilla meditabonda. Mi sa che sono già stati da tutti, manchiamo solo noi. Vediamo un po'. Mercoledì prossimo sarebbe il giorno ideale, ma non dirlo a Matthew, altrimenti troverà una scusa per andare da qualche parte proprio quel giorno. Al pastore Bentley ormai si era abituato e non gli faceva caso, ma conoscendolo per lui sarà difficile dover affrontare un nuovo pastore e la moglie del nuovo pastore lo spaventerà a morte, figurarsi. Starò muta come una tomba, promise la bambina. Ma, oh Marilla, mi daresti il permesso di preparare un dolce per l'occasione? Mi piacerebbe tanto fare qualcosa per la signora Allan e ormai sono brava a preparare le torte. Puoi preparare una torta farcita, acconsentì la donna. Il lunedì e il martedì ci furono preparativi in grande stile a Green Gables. Ricevere un ministro della Chiesa e sua moglie era una faccenda della massima importanza e Marilla era decisa a sbaragliare tutte le massaie di Avonlea. Anna era irrequieta, emozionata e contenta. Ne parlò a lungo con Diana. Il martedì sera al tramonto, mentre se ne stavano sedute sulle grandi rocce rosse accanto alla bolla della Driade, a creare arcobaleni nell'acqua con un legnetto dalla punta rivestita di resina d'abete. È tutto pronto ormai, a parte la mia torta che preparo domani mattina e le focaccine lievitate che Marilla metterà in forno subito prima che arrivino gli ospiti. Guarda, Diana, sono 2 giorni che io e Marilla lavoriamo di gran lena. È una tale responsabilità invitare la famiglia di un ministro della Chiesa? Non avevo mai vissuto un'esperienza simile. Dovresti vedere la nostra dispensa, è uno spettacolo. Serviremo pollo in gelatina e lingua fredda, e ci saranno Due tipi di gelatina dolce, una rossa e una gialla, e una crostata con panna montata e limone, una di ciliegie, tre tipi di biscotti, un dolce di frutta secca e la famosa composta di prugne gialle che Marilla tiene sempre da parte per i pastori. Una torta semplice, una torta farcita e le focaccine che ti dicevo e anche pane appena sfornato e pane del giorno prima, metti caso che il pastore soffra di problemi di digestione e non tollera il pane fresco. La signora Linde dice che è un disturbo molto frequente fra i ministri della Chiesa. Ma il signor Alan è pastore da poco tempo, quindi secondo me la sua attività non può ancora aver avuto effetti negativi. Guarda, mi vengono i sudori freddi se penso alla mia torta. Oh, Diana, e se viene male? Ieri notte mi sono addirittura sognata un folletto terrificante che mi inseguiva e che al posto della testa aveva una torta farcita a strati. Ma dai, sarà squisita! Provò a rassicurarla Diana. Quella che hai preparato 2 settimane fa per la merenda nel boschetto dell'Ozio era buonissima. Certo, ma le torte hanno la pessima abitudine di venire male proprio quando vuoi che siano perfette, sospirò Anna facendo salpare un bastoncino carico di resina. Comunque mi toccherà raccomandarmi alla provvidenza e stare molto attenta quando aggiungo la farina all'impasto. Oh, Diana, guarda che arcobaleno meraviglioso! Magari quando ci saremo allontanate, la driade uscirà a prenderlo per usarlo come sciarpa, eh? Lo sai che la driade non esiste, ribatté Diana. Sua madre aveva saputo della foresta stregata e si era arrabbiata moltissimo. Di conseguenza, Diana evitava accuratamente di lasciarsi andare a inutili voli pindarici e considerava imprudente perfino credere a una semplice driade che non faceva male a nessuno. Però è così semplice immaginare che ci sia sul serio, obiettò Anna. Ogni sera, prima di andare a dormire, guardo fuori dalla finestra. E mi chiedo se la driade è seduta qui a pettinarsi i lunghi capelli, specchiandosi nelle acque limpide della sorgente. Qualche volta ho anche cercato le sue orme nell'erba umida. Oh, Diana, per favore, non smettere di credere alla nostra driade. E finalmente arrivò la mattina di mercoledì. Anna era troppo agitata per poter dormire e si svegliò all'alba. I giochi con l'acqua della sera prima le avevano regalato un bel raffreddore. Ma quel mattino soltanto una brutta polmonite avrebbe potuto spegnere il suo interesse per la pasticceria. Cominciò a impastare la sua torta subito dopo aver fatto colazione. E quando infine chiuse lo sportello del forno, tirò un sospiro di sollievo. Questa volta sono sicura di non essermi dimenticata niente, Marilla. Ma dici che lieviterà? E se il lievito in polvere non fosse buono? Ho usato quello della scatola nuova. La signora Linde dice che non si può mai essere certi che il lievito in polvere sia buono di questi tempi, perché tutto è troppo manipolato dagli uomini. Dice che il governo dovrebbe occuparsi seriamente della questione, ma che un governo conservatore non avrà mai il coraggio di farlo. Oh, Marilla, e se la torta non lievita? Avremo comunque abbastanza da mangiare, fu la risposta secca e poco comprensiva della donna. In ogni caso, la torta lievitò perfettamente e uscì dal forno leggera e soffice come spuma color oro. Rossa per la gioia, Anna la tagliò a strati e la farcì con una gelatina color rubino, pregustando già con la fantasia il momento in cui ne avrebbe servita una fetta alla signora Allan, che l'avrebbe assaggiata con piacere e forse ne avrebbe addirittura chiesta una seconda fetta. «Pensi di usare il servizio da te più bello, vero Marilla?» si informò. Posso decorare la tavola con le rose canine e qualche foglia di felce? Marilla arricciò il naso alla proposta. Mi sembra un'inutile sciocchezza. Per quanto mi riguarda, è importante ciò che si mette nei piatti, non tutte quelle assurde decorazioni. Ma anche la signora Barry ha decorato la sua tavola, ribatté Anna con un pizzico di furbizia che sapeva quali punti toccare per persuaderla. E il pastore le ha fatto anche i complimenti. Ha detto che la sua tavola era una festa per gli occhi e per il palato. Va bene, fa come vuoi, cedette allora Marilla, decisa a non lasciarsi battere da nessuno, tantomeno dalla signora Barry. Però lascia abbastanza spazio per i piatti da portata. Anna si impegnò moltissimo per creare una decorazione floreale più bella e ricca di quella della signora Barry. Aveva a disposizione rose e felci in gran quantità e il suo senso estetico innato l'aiutò a rendere la tavola un autentico spettacolo, tanto che il pastore e sua moglie si lanciarono in un coro di esclamazioni entusiaste quando la videro. È opera di Anna, ammise Marilla con un tono appena risentito, ma il sorriso di stupore e approvazione della signora Allan regalò alla bambina una gioia intensa, quasi troppo grande per questo mondo. C'era anche Matthew. Cosa l'avesse convinto a partecipare alla festa lo sapevano solo il cielo e Anna. Quando era stato informato della visita imminente, era quasi andato in panico, al punto che Marilla, scoraggiata, aveva deciso di rinunciare e lasciarlo in pace. Ma Anna era riuscita a persuaderlo, e ora l'uomo era a tavola insieme a loro, vestito del suo abito migliore, con il colletto bianco, e conversava con il pastore dimostrandosi piuttosto interessato alle sue parole. Non si rivolgeva mai alla signora Allan, ma non si poteva pretendere che arrivasse a tanto. Filò tutto liscio. Fu un pasto molto sereno, fino al momento in cui fu servita la torta di Anna. La signora Allan, che aveva già assaggiato praticamente tutto ciò che le era stato offerto, la rifiutò con un gesto cortese. Marilla, però, si accorse che Anna c'era rimasta male e insisté con un sorriso. «Oh, signora Allan, ne prende almeno una fettina. L'ha preparata Anna con le sue mani, apposta per lei». «Oh, se l'ha fatta la piccola Anna, non posso perdermela», rispose la donna con una risata cordiale. «Se ne servì una bella porzione imitata dal marito e da Marilla». Appena la signora Allan portò alla bocca il primo boccone, una smorfia le alterò il viso, ma non disse una parola e continuò a masticare. Marilla, tuttavia, l'aveva notato e si affrettò ad assaggiare la torta. «Anna Shirley!» esclamò. «Cosa diavolo hai messo in questo dolce?» «Solo gli ingredienti della ricetta, Marilla!» mormorò la bambina già allarmata. «Non è buona?» «Buona? È disgustosa! Signora Anna, la lasci nel piatto. Anna, mangiane un pezzetto. Che senso hai usato?» «Vaniglia!» rispose la bambina, rossa di vergogna, dopo aver assaggiato la torta. «Solo vaniglia! Oh, Marilla, deve essere il lievito! Avevo qualche sospetto su quel lievito!» «Ma quale lievito? Vai a prendere l'essenza che hai usato!» Anna corse in dispensa e tornò con un flacone mezzo pieno di un liquido scuro e con un'etichetta ingiallita che diceva «Vaniglia finissima». Marilla lo prese, lo aprì e ne annusò il contenuto. «Santa pazienza, Anna! Hai messo nella torta il mio sciroppo analgesico! La settimana scorsa ho rotto la bottiglia e ho travasato il poco che era rimasto nel vecchio flacone dell'essenza di vaniglia. Probabilmente un po' è anche colpa mia, potevo dirtelo in fondo, ma santo cielo, non ti sei accorta dell'odore?» Anna scoppiò a piangere. «No, non sento nessun odore, ho un raffreddore pazzesco!» E scappò di sopra in camera sua, dove si buttò sul letto singhiozzando. Poco dopo sentì un passo leggero salire le scale e nella stanza entrò una persona. «Oh, Marilla!» gemette la bambina senza alzare la testa. «Ho combinato un pasticcio tremendo e non sopravvivrò, non posso farcela! Lo sapranno tutti ad Avonlea! Si viene sempre a sapere tutto! Diana mi chiederà com'è venuta la torta, io sarò costretta a dirle la verità e mi indicheranno quando passerò per la strada. È lei quella che ha messo nella torta lo sciroppo contro l'emicrania? I maschi a scuola sghignazzeranno per l'eternità! Oh, Marilla, è una vera catastrofe, una calamità! Ti prego, se hai un pizzico di carità cristiana, non farmi scendere a lavare i piatti. Li laverò appena se ne saranno andati il pastore e sua moglie. Oh, no, lo so, non potrò guardare in faccia la signora Allan mai più. Magari pensa che abbia voluto avvelenarla. La signora Linde mi ha raccontato che conosce un'orfana come me che ha cercato di avvelenare il suo benefattore. Però la tua medicina non è velenosa, vero? Tu la bevi, quindi si può ingerire, anche se non può sostituire la vaniglia in una torta. Oh, Marilla, per piacere, puoi dirlo alla signora Allan. Perché non ti giri e non glielo dici di persona? Suggerì una voce allegra e gentile. Anna si tirò su di scatto e si trovò davanti, in piedi accanto al letto, la moglie del pastore che la guardava con aria divertita. «Anna, cara, non piangere», le disse sinceramente preoccupata per la disperazione della bambina. «È stato solo un imprevisto. Poteva succedere a chiunque». «Oh, no, io combino pasticci di continuo, solo io sono così maldestra», ribatté lei sconsolata. «Invece ci tenevo tanto a preparare una torta speciale proprio per lei, signor Allan». «Sì, cara, lo so, e apprezzo infinitamente il tuo pensiero gentile, come se il dolce fosse venuto alla perfezione. Adesso basta piangere, però. Dai, scendiamo in giardino. Ti va a dimostrarmi i fiori? Li La signorina Cuthbert mi ha raccontato che hai un'aiola personale. Mi piacerebbe tanto vederla. Io adoro i fiori, sai? La bambina accettò di buon grado e scese, pensando che era davvero provvidenziale che la signora Allan assomigliasse tanto nel carattere. Nessuno fece più cenno al suo incidente culinario, e quando gli ospiti se ne andarono, Anna si rese conto che, nonostante quello spiacevole intoppo, la serata era stata molto più piacevole di quanto si aspettasse. Eppure non poté trattenere un sospiro. Marilla, non è bello pensare che domani sarà un altro giorno, e per quanto ne sappiamo adesso, senza pasticci. Sono sicura che invece ne farai un bel po', replicò la donna. Non ti batte nessuno nel combinare guai, Anna. Sì, lo so, riconobbe la bambina rannuvolandosi. Ma una cosa incoraggiante c'è. Se ci fai caso, Marilla, io non combino mai due volte lo stesso pasticcio. Non so a cosa serva, visto che sei molto fantasiosa e ne trovi sempre uno nuovo. Però, prova a pensarci, ci sarà un limite ai guai che una persona può combinare? E quando l'avrò raggiunto saranno esauriti e non ne farò più. È un'idea incoraggiante, no? Sì, sarà anche così. Ma adesso ti conviene portare quella torta ai maiali, concluse Marilla. Non è roba adatta agli esseri umani, nemmeno a Jerry Boat.